Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Parole e dintorni, Milano. Chitarrista e collaboratore di Franco Battiato, Eros Ramazzotti e Cristiano De André, ora debutta come cantautore. Il suo secondo singolo è Naufraghi, si fa chiamare solo Didio. Didio è un ragazzo che alla fine degli anni 90 si è trasferito a Milano cercando di fare il cantautore, che poi per 20 anni si è trovato a fare il chitarrista. Fortunatamente per alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, uno su tutti Franco Battiato, ma anche Cristiano De André, Eros Ramazzotti, eccetera, ed è stato proprio Battiato a battezzarmi Didio usando esclusivamente solo il mio cognome. Anzi, in realtà sembra che all'epoca abbia detto: si chiama Didio, non possiamo non prenderlo. Quindi, in omaggio appunto a Franco e anche alla nostra amicizia, ho deciso poi di utilizzarlo come nome d'arte. Hai detto: mi sono trasferito a Milano, perché tu sei napoletano? Sì, sono napoletano, classe 1980. Diciamo che napoletano classe 1980, nascita già in zona turbolenta, eh? Sì, sicuramente per il terremoto, però anche perché in quell'anno uscì Nero a metà di Pino Daniele, e quindi diciamo che nell'81 La voce del padrone di Franco, e quindi diciamo good vibes a manetta, diciamo così. Diventano sogni e puoi disegnare, soffiarli nel vento che sta per cambiare, e quando ti svegli apri gli occhi non fa più male. Sentiti libera di dire no alle regole che cambiano continuamente, ti lasciano lì in un angolo al buio. Il tuo progetto nuovo, perché avevi già fatto altre cose, è stato anticipato prima da un singolo che si intitolava Mi gira la testa a ottobre, e adesso c'è Naufraghi. Intanto voglio chiederti, discograficamente, come stai costruendo questo viaggio nuovo? Allora, diciamo che in precedenza avevo già pubblicato dei dischi, però avevano al centro più la figura appunto del chitarrista, e quindi a un certo punto ho capito che dovevo essere presente totalmente nello spazio e nel tempo in cui vivo, quindi il mio paese che è l'Italia, eccetera. E poi soprattutto a un certo punto sono nate 30 canzoni così dal nulla, che poi dal nulla non è mai, e quindi ho detto: ok, qua c'è da ripartire da capo praticamente. E quindi abbiamo deciso di adottare questa strategia, che poi è comune a molti di questi tempi, della pubblicazione dei singoli. Mi gira la testa è uscita a ottobre e parla dell'iperconnessione, appunto di questo mondo digitale in cui siamo immersi, e del fatto che tutti cercano di dettare i tuoi tempi. E io penso che invece sia necessario riappropriarci del nostro tempo, dettando noi appunto un attimino le nostre tempistiche appunto agli altri, e non viceversa. Naufraghi invece parla delle convivenze, di tutte le convivenze, e del fatto che quando si chiude la porta si ritrova come naufraghi su un'isola, con tutte le problematiche connesse. A un certo punto ti rivolge a una donna, alle donne? Sì, mi rivolgo alle donne, perché all'interno delle convivenze, secondo me, è lì che poi il più delle volte nasce la violenza appunto sulle donne, che prima di diventare fisico a volte non ci diventa affatto, è sicuramente una violenza psicologica, che è molto più subdola e più difficile da, come dire, anche da riconoscere da parte soprattutto forse di chi la sta subendo, no? E quindi appunto le regole che cambiano continuamente, di cui parlo nell'inciso di questo brano, sono quell'insieme di dogmi che sono messi insieme anche in contraddizione tra loro, il cui unico scopo è quello di bloccare l'altro e le sue possibilità. Quindi questa è sicuramente una violenza. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Didio. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network, in diretta dalle 16:00.